abbiamo tutti contro, solo perché ti amo, perché il dubbio non appartiene a chi ama, a chi si vuole bene, perché il tempo si è fermato da quando ti ho incontrato. Non vedo nessuna ombra, sono troppo nella luce, sento le tue mani sostenere la mia voce, con i piedi incatenati non potrò mai liberarti, ora che anche la storia si è fermata e tu nei miei sogni sei entrata. Ballano farfalle sotto i portici della piazza, suonano le orchestre solo per te, suonano a festa, potrai vedere in cielo il tuo nome in volo brillare. Ti scrivo per dirti quello che non ti ho mai potuto dire. Senza sogni non ci sono parole, perché la strada è piena di cicatrici abbandonate nel mare. Chissà se lasceremo una traccia del nostro amore, un respiro di libertà, un pizzico del nostro volere, per quanto sia incredibile. Non si contano le onde del mare, per quanto sia incredibile, non si contano i raggi del sole, né mai si perderanno tutti i pesci del mare, né mai si perderanno chi si ama con il cuore. Ballano farfalle sotto i portici della piazza, suonano le orchestre solo per te, suonano a festa, potrai vedere in cielo il tuo nome in volo brillare. Ti scrivo per dirti quello che non ti ho mai potuto dire. Appartiene a chi si ama, a chi si vuol bene, perché il tempo si è fermato da quando ti ho incontrato. C'è sempre una chitarra che suona le mie canzoni, c'è sempre un tuo qualcosa che illumina i confini. Non ci si dimentica la strada che ti ha spalancato il cuore, malgrado tutto, malgrado i sogni restano amore. Ballano farfalle sotto i portici della piazza, suonano le orchestre solo per te, suonano a festa, potrai vedere in cielo il tuo nome in alto volare. Ti scrivo per dirti quello che non ti ho mai voluto dire.